Terzo anello, ad alta voce. Il Conte di Montecristo, di Alexandre Dumas. Dantès non aveva ancora trascorso una giornata intera a bordo che già sapeva con chi aveva a che fare. Era a bordo di una nave contrabbandiera. Per questo il padrone sulle prime lo aveva accolto con una certa diffidenza. Ma il modo brillante con cui Dantès si era tratto d'impaccio nel pilotare il battello lo aveva convinto del tutto, e poiché teneva molto a mantenere fra i suoi un uomo del valore di Edmond, gli aveva proposto un anticipo della sua parte dei futuri guadagni, ed Edmond aveva accettato. Edmond aveva il vantaggio di sapere chi fosse il suo padrone, mentre il suo padrone non sapeva chi fosse lui. Fu dunque in questa condizione reciproca che giunsero a Livorno. Una sera il padrone lo prese per un braccio e lo condusse in una taverna in via dell'Olio, nella quale erano soliti radunarsi i migliori contrabbandieri di Livorno. Questa volta si trattava di un affare di grande importanza. Si trattava di un bastimento carico di tappeti turchi, di stoffe del Levante e di Kashmir. Occorreva trovare un terreno neutro dove si potesse fare il trasbordo, poi tentare di far entrare quegli oggetti sulle coste della Francia. Il padrone della Jeune Amélie propose come luogo di sbarco l'isola di Montecristo. Al nome di Montecristo, Dantès trasalì dalla gioia. Si alzò per nascondere la propria emozione e fece un giro in quella taverna affumicata dove tutti gli idiomi del mondo conosciuto venivano a fondersi nella lingua franca. Edmond, consultato, fu dell'avviso che l'isola offriva tutte le sicurezze possibili e che le grandi imprese, per riuscire, dovevano essere eseguite con rapidità. Venne la notte. Il mare era calmo e i venti favorevoli. Salparono. Alle 10 di sera approdarono all'isola di Montecristo. L'isola era familiare all'equipaggio della Jeune Amélie. Era una delle sue tappe ordinarie. Quanto a Dantès, l'aveva vista in tutti i suoi viaggi in Levante, ma non vi era mai sbarcato, quindi rimandò le sue ricerche all'indomani. D'altronde, un segnale inalberato a mezza lega in mare e al quale rispondeva con un segnale simile la Jeune Amélie indicò che era giunto il momento di accingersi all'operazione. Il bastimento ritardatario, rassicurato dal segnale che doveva far capire che l'approdo era sicuro, apparve ben presto, bianco e silenzioso come un fantasma, e venne a gettare l'ancora presso la riva. Immediatamente iniziò il trasbordo delle merci. Quando l'indomani, prendendo un fucile, dei pallini e della polvere, Dantès manifestò il desiderio di andare a sparare a qualcuna di quelle numerose capre selvagge che si vedevano saltare di roccia in roccia, si attribuì questa escursione di Dantès all'amore per la caccia e al desiderio di solitudine. Nel frattempo, i suoi compagni preparavano il pranzo, andavano ad attingere acqua alla sorgente, trasportavano il pane e la frutta a terra e facevano cuocere il capriolo. Proprio nel momento in cui lo toglievano dallo spiedo improvvisato, videro Edmond che, leggero e ardito come un camoscio, saltava di roccia in roccia. Tirarono un colpo di fucile per avvertirlo. Il cacciatore cambiò subito direzione e ritornò verso di loro correndo. Mentre tutti lo seguivano con lo sguardo in quella specie di volo che egli eseguiva, giudicando temeraria la sua agilità, come per dare ragione ai loro timori, a Edmond cedette un piede. Lo videro vacillare, sulla punta di uno scoglio, gettare un grido e sparire. Tutti balzarono col medesimo slancio perché tutti amavano Edmond. Jacopo però fu il primo a raggiungerlo. Trovò Dantès steso, insanguinato e quasi privo di sensi. Era rotolato da un'altezza di 12 o 15 piedi. Edmond riaprì gli occhi e si lamentò di soffrire un vivo dolore al ginocchio, un gran peso alla testa e un'insopportabile fitta alle reni. Il vecchio padrone, costretto a partire quella mattina per andare a consegnare il suo carico alle frontiere del Piemonte e della Francia, insistette perché Dantès cercasse di alzarsi. Dantès fece degli sforzi sovrumani per obbedire a questo invito, ma a ogni sforzo ricadde, lamentandosi e impallidendo. «Sono stato incauto», disse, «ed è giusto che paghi la mia imprudenza. Lasciatemi una piccola provvista di biscotti, un fucile, della polvere e delle pallottole per ammazzare dei capretti, o anche per difendermi, e una zappa per costruirmi una specie di casetta in caso che tardaste a ritornare a prendermi. «Staremo via almeno 8 giorni», disse il padrone. «Ascoltate, padron Baldi», disse Jacopo, «resterò io a curare il ferito». «E rinunceresti alla tua parte di guadagno per rimanere con me?» disse Edmond. «Sì, e senza rimpianti». Uno strano sorriso passò sulle labbra di Dantès. Strinse la mano di Jacopo con affetto, ma rimase irremovibile nella risoluzione di rimanere e di rimanere solo. Quando i contrabbandieri furono spariti, Dantès si rialzò, più lesto e più leggero di uno dei caprioli che saltellavano fra i mirti e i lentischi su quelle rocce selvagge. Prese il suo fucile con una mano, con l'altra la zappa, e corse a quella roccia dove terminavano i segni che aveva osservato sulle altre. «E ora?» gridò, entrando nella grotta e ricordandosi la storia del pescatore arabo che gli aveva raccontato Faria. «Ora apriti sesamo!» Invece delle tenebre che si aspettava di trovare, invece di un'atmosfera opaca e viziata, Dantès vide una dolce luce decomposta in un chiarore azzurrognolo. L'aria e la luce filtravano non solo dall'apertura da lui praticata, ma dalle crepe delle rocce invisibili dall'esterno e attraverso le quali si vedeva l'azzurro del cielo, dove si univano i rami tremolanti dei verdi cespugli o i legamenti spinosi e rampicanti dei rovi. Dopo qualche secondo di sosta in quella grotta, Dantès si ricordò i termini del testamento che sapeva a memoria. «Nell'angolo più lontano della seconda apertura», diceva questo testamento. Dantès era penetrato solo nella prima grotta. Bisognava dunque cercare subito l'entrata della seconda. Con la zappa colpì la roccia a intervalli, ricavandone un rumore sordo. La sua compattezza faceva sudare la fronte di Dantès. Finalmente sembrò al perseverante minatore che una parte del muro di granito rispondesse ai suoi colpi con un'eco più sorda e più profonda. Guardò la roccia con maggiore attenzione e si accorse, per la sua lunga esperienza di prigioniero, di ciò che nessun altro avrebbe forse scoperto: che là doveva esserci un'apertura. Dantès colpì allora con la parte tagliente della zappa, che penetrò di un pollice nella porta murata. Dopo qualche colpo si accorse che le pietre non erano cementate, ma soltanto posate le une sulle altre. Introdusse in una fessura la punta della zappa, si appoggiò con il corpo sul manico e vide con gioia la pietra cadere ai suoi piedi. A sinistra dell'apertura c'era un angolo profondo e buio. Il tesoro, se esisteva, era sotterrato in quell'angolo oscuro. Ma per l'occhio di Dantès non esistevano tenebre. Il momento dell'angoscia era arrivato. Due piedi di terra da scavare era tutto ciò che restava a Dantès fra il sommo della gioia e il sommo della disperazione. Egli avanzò verso l'angolo e, come preso da una improvvisa risoluzione, attaccò il suolo arditamente. Al quinto o sesto colpo di zappa il ferro risuonò su un altro ferro. Mai campana a martello né rintocco funebre produssero un simile effetto su chi lo udì. Niente avrebbe potuto far diventare Dantès più pallido. «È un baule di legno, cerchiato di ferro!» disse. In un istante fu scavata una fossa di circa 3 piedi di lunghezza e 2 di larghezza, e Dantès poté riconoscere un forziere di legno di quercia con cerchi di ferro cesellato. In mezzo al coperchio splendeva, sopra una placca d'argento che la terra non aveva nemmeno appannato, lo stemma della famiglia Spada. Una spada messa di traverso sopra uno scudo ovale, come sono gli scudi italiani, e sormontato da un cappello cardinalizio. Dantès prese il forziere per le maniglie e tentò di sollevarlo. Era impossibile. Allora tentò di aprirlo. Introdusse il lato tagliente della zappa tra il forziere e il coperchio, premette con forza sul manico e il coperchio si ruppe. Una febbre vertiginosa si impadronì di Dantès, chiuse gli occhi, quindi li riaprì e rimase abbagliato. Il forziere era diviso in 3 parti. Nella prima brillavano fulgi di scudi d'oro dai riflessi fulvi, nella seconda lingotti d'oro mal bruniti e disposti in buon ordine, ma che dell'oro avevano solo il peso e il valore. Nella terza, infine, piena a metà, Edmond prese a manciate i diamanti, le perle e i rubini, che come cascate sfavillanti facevano nel ricadere gli uni sugli altri il rumore della grandine sui vetri. Dopo aver toccato, palpato e immerso le mani tremanti nell'oro e nelle pietre, Edmond si rialzò e si mise a correre per le caverne con la fremente esaltazione di un uomo che sta per impazzire. Sognava o era sveglio? Cadde in ginocchio, comprimendo convulsamente con le mani il cuore in tumulto e mormorando una preghiera intellegibile solo a Dio. Subito si sentì più calmo e quindi più felice, perché solo in quel momento cominciò a credere alla propria felicità. Thank you. Si fece giorno. Dantes si alzò. Salì sulla roccia più elevata dell'isola per esplorarne i dintorni. Tutto era deserto. Levò la pietra. Discese. Riempì le sue tasche di pietre preziose. Ricoprì tutto per ridare all'angolo scavato una perfetta uniformità e attese con impazienza il ritorno dei suoi compagni. I contrabbandieri ritornarono il sesto giorno. Edmond si imbarcò subito, la sera stessa, e seguì il suo padrone a Livorno. L'indomani Dantes comprò una barca nuova che regalò a Jacopo, aggiungendo a questo dono 100 piastre, perché egli potesse provvedersi dell'equipaggio, e ciò a condizione che Jacopo andasse a Marsiglia a chiedere notizie di un vecchio chiamato Louis Dantes che abitava nei viali di Meillan e di una giovinetta che abitava nel villaggio dei Catalani che si chiamava Mercedes. Allora fu Jacopo che credette di sognare, ma Edmond gli raccontò di essere diventato marinaio per una bizzarria e perché la sua famiglia non gli voleva passare il denaro necessario per le sue spese minute, ma aggiungendo a Livorno era entrato in possesso dell'eredità di uno zio che lo aveva nominato erede universale. L'indomani Jacopo salpò per Marsiglia. Si sarebbero ritrovati con Edmond a Montecristo. Dantes andò a Genova. Nel momento in cui arrivò, veniva armato un piccolo yacht ordinato da un inglese. L'inglese aveva offerto il prezzo di 40.000 franchi. Dantes ne offrì 60.000, a condizione che la barca gli fosse consegnata quello stesso giorno. 2 ore dopo uscì dal porto di Genova. Giunse a Montecristo sul finire del secondo giorno. L'ottavo giorno vide un piccolo bastimento venire verso l'isola a vele spiegate e riconobbe la barca di Jacopo. Jacopo portava una triste risposta a ciascuna delle 2 domande fatte da Edmond. Il vecchio Dantes era morto. Mercedes era sparita. Edmond ascoltò quelle 2 notizie con viso calmo, ma scese subito a terra proibendo che lo si seguisse. 2 ore dopo ritornò. 2 uomini della barca di Jacopo passarono sul suo yacht per aiutarlo a manovrare. Egli ordinò di fare rotta per Marsiglia. A Livorno lo specchio lo aveva rassicurato. Non correva alcun pericolo di essere riconosciuto. D'altronde aveva tutti i mezzi per camuffarsi. Una mattina dunque lo yacht, seguito dalla piccola barca, entrò arditamente nel porto di Marsiglia e si fermò proprio di fronte al luogo dove era stato imbarcato Dantes quella sera di triste memoria in cui lo avevano portato al castello d'If. Non fu certamente senza una sorta di fremito che egli vide venire un gendarme su una lancia della sanità. Ma Dantes, con la perfetta sicurezza acquistata, gli presentò un passaporto inglese, di cui si era provveduto a Livorno, e mediante il lasciapassare straniero, molto più rispettato in Francia di quello francese, sbarcò senza difficoltà. Ciascun passo opprimeva il cuore di Dantes con una nuova emozione. Tutti i suoi ricordi d'infanzia, ricordi indelebili, eternamente presenti al suo pensiero, erano là, a ogni angolo di piazza, a ogni svolta di strada, a ogni crocicchio. Giunse alla casa in cui aveva abitato suo padre. Dantes si appoggiò ad un albero e per qualche tempo restò pensieroso, guardando l'ultimo piano di quell'umile e povera casa. Poi avanzò verso la porta, ne superò la soglia e domandò se vi fosse un alloggio libero, e tanto insistette per visitare il 5° piano che, quantunque fosse occupato, il portinaio salì e domandò alle persone che vi abitavano, a nome di uno straniero, il permesso di vedere le 2 stanze di cui si componeva. Nulla più richiamava alla memoria l'appartamento di suo padre. Dantes si volse dalla parte del letto, che era nello stesso posto in cui lo teneva l'antico locatario. Suo malgrado, gli occhi di Dantes si bagnarono di lacrime. Era quello il luogo in cui il vecchio aveva reso l'ultimo respiro, invocando il figlio. Dantes scese, domandò l'indirizzo del proprietario della casa sui viali di Meillan, andò da lui, si fece annunciare sotto il nome di Lord Wilmore, erano il nome e il titolo che stavano scritti sul passaporto, e comprò quella piccola casa per la somma di 25.000 franchi, almeno 10.000 franchi più di quello che valeva. E anche se gli avessero chiesto 500.000, lo avrebbe pagato. Chi, come me, ha percorso a piedi il mezzogiorno della Francia, avrà potuto notare fra Bellegarde e Beaucaire, circa a metà strada tra il villaggio e la città, una piccola locanda sulla cui facciata sta appesa un'insegna di latta che stride al minimo vento e su cui è grottescamente dipinto il ponte di Garde. Dalla parte di Bellegarde, un cavaliere e un cavallo sopraggiungevano con quell'andatura sciolta e confidenziale che indica le migliori relazioni fra l'uomo e l'animale. Il cavallo era di razza ungherese e andava comodamente al trotto. Il cavaliere era un prete vestito di nero con il cappello a tre angoli. Malgrado l'eccessivo calore di un sole ardente nell'ora di mezzogiorno, avanzavano a un trotto molto regolare. Giunti davanti alla porta, si fermarono. Sarebbe stato difficile decidere se fosse stato l'uomo a fermare il cavallo o il cavallo a fermare l'uomo. A ogni modo, il cavaliere mise piede a terra e, tirando l'animale per le redini, andò ad attaccarlo all'arpione di un'imposta sconnessa che si reggeva solo su un cardine. Quindi, avanzando verso la porta e asciugandosi la fronte grondante di sudore con un fazzoletto di cotone rosso, batté tre colpi sulla soglia con il puntale di ferro della canna che teneva in mano. Subito un grosso cane nero si alzò e fece qualche passo abbaiando e mostrando i denti bianchi e aguzzi. Doppia dimostrazione ostile che provava la poca abitudine che aveva alle visite. Immediatamente dopo un passo grave rumoreggiò sulla scala di legno. «Eccomi!» disse l'oste meravigliato. «Eccomi! Puoi stare zitto, Margotin! Non abbiate paura, signore, abbaia ma non morde!» «Desiderate del vino, non è vero? Perché fa un caldo del diavolo. Ah, mi scusi!» Si interruppe, vedendo con quale specie di viandante parlava. «Mi scusi, non sapevo chi avevo l'onore di ricevere. Che desiderate? Che domandate, signor abate? Sono ai vostri ordini!» Il prete guardò quell'uomo per 2 o 3 secondi con un'attenzione strana e sembrò cercasse di attirare su di sé l'attenzione dell'albergatore. Ma vedendo che i lineamenti di costui non esprimevano altro sentimento fuorché la sorpresa di non avere una risposta, giudicò fosse tempo di finirla e con un accento italiano ben pronunciato disse: «Non siete il signor Caderousse?» «Sì, signore», rispose l'oste, forse stupito più della domanda che non del silenzio. «Sono effettivamente Gaspar Caderousse per servirvi». «In altri tempi, voi abitavate nei viali di Meillon al quarto piano, non è vero?» «Precisamente». «Ed esercitavate la professione di sarto?» «Sì, sì, ma la mia professione andò male. Fa tanto caldo in quella maledetta Marsiglia che andrà a finire che nessuno si vestirà più. Ah, ma a proposito di calore, non volete prendere qualcosa per rinfrescarvi, signore abate?» «Sia pure. Datemi una bottiglia del miglior vino che avete. E poi riprenderemo la conversazione, se non vi dispiace». «Come vi farà più piacere, signor abate?» «Siete solo?» domandò l'abate all'oste, mentre questi gli metteva davanti la bottiglia e un bicchiere. «Oh mio Dio, sì, solo o quasi, signor abate, poiché ho una moglie che però non mi può aiutare in nulla, essendo la povera Carconde quasi sempre malata». «Ah, siete sposato?» disse l'abate con un certo interesse, girando intorno uno sguardo che sembrava stimare lo scarso valore delle meschine suppellettili della stanza. «Vi accorgete che non sono ricco, non è vero, signor abate?» disse sospirando Caderousse. «Ma che volete? Per essere fortunati a questo mondo non sempre basta essere un uomo onesto». L'abate fissò uno sguardo indagatore su di lui. «Sì, signore, un onest'uomo, di ciò posso vantarmi», disse l'oste, sostenendo lo sguardo dell'abate, con una mano sul petto e scuotendo il capo dall'alto in basso. «E nella nostra epoca non tutti possono dire altrettanto». «Tanto meglio, se è vero ciò di cui vi vantate, poiché ho la ferma convinzione che presto o tardi l'uomo onesto venga ricompensato e il perverso punito». «È il vostro stato che vi fa parlare così, signor abate? È il vostro stato che vi fa parlare così?» ripeté Caderousse con un'espressione amara. «La realtà, però, ci mostra spesso il contrario di ciò che dite». «Avete torto a dire così, signore», disse l'abate, «perché forse fra qualche istante sarò per voi una prova di ciò che asserisco». Thank you.